fatto male nel rapporto interpersonale. Io leggo che ci sarà una previsione astrale. Questa vita è troppo uguale. Sono stanco di relazionarmi agli altri. Oltre al patimento di ascoltare parlare la gente che si dice contenta, persuasa, convinta che sia bella la vita col sole nel cielo d'estate. Oltre a tutte le mie questioni esistenziali, devo subire i problemi personali dell'analista da cui mi confesso l'essere d'inverno. Cosa stai dicendo? Non connetti, forse troppo tempo che rifletti, lascia invece che il tuo spirito si liberi nell'aria, trovi la sua dimensione. Semplice nel ragionare. Io vedo che se fossi meno intelligente e anche molto più freddo, sarei più quieto nei nervi e nella mente. Il cosmo è ricco di particolari. Più ne vedo, più ne scopro, più mi sembrano amari. La mia terra è fatta da rapporti umani, quasi tutti deteriori e a volte sono